Greco, Greco, la scala di gioco a Rosso, canale 10, buongiorno Sassari. Rosso, mi senti? Sassari, capi. Rosso. Avanti, avanti. Ciao, buonasera, Luca, dall'Alima Delta. Mi puoi dare un controllino di radio? Ciao, ascolta, non ti ho copiato bene, hai la voce che esce un po' robotica. Guarda, ci va meglio così. Negativo, riesco a capire, ma non è che sia eccezionale. Sto controllando il microfono, vedi un po' adesso. Ora era buona come parlata, però molto basso, sì, molto basso. Aspetta, aspetta un attimino, guarda abbassando in questo modo dalla radio, vedi un po'. Ma ora è un po' meglio, sì, ora riesco a sentirti bene. Ho un microfono vecchio, è uno Shure, che sto provando per un amico, volevo vedere come usciva. Cappa, non benissimo, però dai, già si capisce. Noi Rosso, Radio Vivaro, con Rosso Mandarino, siamo due colleghi, barra mobile, stiamo andando al parco di Bunnari a consegnare. Sì, io qua lì mi ha detto a zona Butti. Benissimo. KK, siamo con lineare, potenza massima, dovremmo essere sui 2-300, se non erro. 925 modulanti, qua. KK, molto bene, anche tu ora riesco a sentirti chiaramente, dai. Allora va bene come microfono, sì, si può andare, dai. Si può andare, non è eccelso però già, va bene, dai. Segnale 9-10, niente, senti bene, pulito, niente disturbi, dai. Adesso te ne metto un altro, un attimo, Gappa. Allora, questo è un SM20, vedi un po' com'è. Gappa, come volume più corposo questo qui, si sente meglio. Voce lo stesso limpida. Un po' lontano, ma va bene. Aspetta, devo aumentare di nuovo dalla radio. Gappa, vedi un po' adesso com'è. Gappa, ora sei abbastanza alto, ben modulato, dai. Questo è l'SM20, K, tutto Roger. Va bene, dai. Che mi metto a fare? Ci sentiamo più tardi, però ti controllo eventualmente, grazie. K, noi ci trovi sul 10 o sul 5? Siamo qua per tutto il pomeriggio. E a dopo. Thank you. avanti, chi è? Chi è là, chi è là? Uscio le antenne ci avrete di antenne, cambio. No, io non ero fuori strada. Dove siete? Dove siete? Lo so. Questo che va in TX normalmente, e questa ce la fai, adesso non scappa più. Sì. Io proprio. Io sono sempre sul 20, ma adesso questo qui era acceso forse da ieri. No, forse da ieri, qua. Non mi ricordo più sopra la partita. Va bene, c'è una bussata, c'è un brecco forte e chiaro. Vediamo chi è, ecco qua. Ciao Marco, Fabrizio, ascolta sia te che a Claudio, guarda questa modulazione, perché voglio togliere quel microfono e ho cablato quest'altro microfono per vedere se sta uscendo bene o è troppo forte o com'è. Io qua con questa rete ho fatto un po' cupo, un po' nasino devo dire, cupo e nasino. Sentiamo Claudio che cosa dice in merito. Confermo, io sto ascoltando con Galaxy. È percepibilissima, nel senso che è abbastanza chiara, ma è cupa e nasina, tutto qua. E allora è proprio il microfono, lo c'è, perché ce l'avevo sul quello dell'ICOM, l'ho ricablato per la Kenwood e il Super Siderick, eppure è strano che sia cupo. E vabbè, cupo vuol dire che come risulta cupo? Ma cupo un bene, poi e poi non è chiara, è grano rosa, ma non è che è troppo alto, prova a abbassare un po' a vedere cosa succede. Ecco, adesso giù. Adesso l'ho abbassato un pochetto molto. Beh, c'è stato prima tutto un passaggio lungo che non avevi modulazione, poi adesso ti ho sentito nuovamente, hai ripreso dopo una parte del QTC, quando hai abbassato un pochino ha migliorato, si è abbassata ma ha migliorato, è un po' più chiara. Allora, tanto devo capire questo non è... Allora, se io la sollevo invece, adesso parlo piano, ma per non toccare il mic gain della radio, per capire se il microfono è... No, sempre cupa e molto nasale. Ma prova a parlare un po' più lontano, se magari rimane più chiara. No, ma è proprio probabilmente il microfono che rimane a questa timbrica, questo qua con me, boh. No, guarda che allontanandoti sembra che si schiarisca. Adesso c'ha quell'effetto prossimità, c'ha proprio come l'effetto che stai saturando la capsula. Prova a allontanarti e parla un po' più piano. Allora, se lo tengo a questa distanza come ti sembra? Ma è sempre tutta impazzata, non è chiara. Guarda, adesso ho abbassato il mic gain, a parte che sarà bassissima. Ma passi da satura a crepare a quasi non esserci. Tieni un po' di moderazione, no? Guarda, ora 1, 2, 3 prova, 1, 2, 3 prova. No, ma allora il microfono, anche sull'altra radio risulta così. No, ma è troppo basso, così ti ho detto, è troppo basso. E passi da satura a 10 di. Da 12 di amplificazione col massimo 10 a 1, cioè una via un po' più intermedia, non c'è? Sì, allora io adesso aumento il mic gain della radio e ho abbassato il mic gain del microfono. È già un po' migliorato. Allora questo lo metto a 1, questo lo metto a 1 e sollevo questo mic gain della radio. Così va un pochino meglio, però non è bella, non è una bella modulazione. Vabbè, allora lo tolgo direttamente, non va bene, appunto, non va bene, è brutta la modulazione, che ci posso fare. Non è chiara Fabri, non è bella chiara, è tutta un po' impattata, evidentemente non si adatta all'interenza. Non so che radio sia, ma non si adatta. Allora, rimetto il suo microfono, aspetta. Un po' ha migliorato adesso, abbassando il preamplificatore del microfono e aumentando quello della radio ha migliorato notevolmente, però non è proprio bella, squillante e chiara. Ma se non è squillante e chiara, cosa ci vuoi fare? Qual è il mic gain? Aspetta che non mi ricordo nemmeno dove. Eccolo qua. Però è brutto, dai. 1, 2, 3, prova, così è proprio al minimo e sto sollevando il mic gain. Sembra neanche un Super Siderick, guarda, questo è un tono in più 3B, non hai acuti, non hai tonalità, non hai niente, sembra una radio quasi citofonica. Sì, non va per niente bene. Buonasera, Rosso sono dal centro di Sassari, vi ascolta. Sì, buonasera Rosso. Buonasera Rosso, qua dal centro del monte. Cazzo gira una riccia, qui Rosso io. Rosso, ma non è, non so belle cose di questo pio. Era meglio se. Ma neanche al verde, perché se uno è al verde non è bello neanche al verde. Ciao Rosso, buonasera. Marco Scorpio in questo con occhi di gatto e con torre di controllo, Claudio, va. Break. Rosso, hai sentito? Break registrato. Vi sento un po' maluccio, no, puoi ripetere per cortesia? Niente, ti dicevo che c'è Claudio qua e Fabrizio. Ciao, buonasera, sono Marco io, Marco Scorpio. Va bene, c'è stato un break avanti e poi vediamo se si è riuscito a girare meglio quelle viti lene. Avanti il break e con la buonasera. Cappa, buonasera a tutti, Cappuccetto da questa. Ecco, mi arrivi tu Cappuccetto, a posto. Occhio Cappucce, mica c'è il lupo in giro, stai attento che c'è il lupo in giro. Io non ti ho detto niente, vabbè, sentiamo occhi di gatto, Fabri, allora, niente, Fabrizio sta facendo la differenziata con quella radio, non usciva bene, Ocla, era un po' granulosa, un po' nasale, un po' una modulazione così. Ascoglio, rimetto il suo microfono. È più chiara, è un po' più bassa, è più chiara, però questa è, almeno sei tu, No, non è che ce l'avevo, era, ce l'ho arrivato poco, non volevo toccare il mic again. No, adesso è troppo, un pochino più bassa, occhi di gatto, non esagerare. No, perché tu mi provochi. Vabbè, io ti provoco, ma faccio il mio lavoro, ma adesso tu non è che ti devi subito, neanche ti abbia schiacciato la cola, occhi di gatto, aspetta che facciamo venire avanti Rosso di sera, avanti, bel tempo si spera, ma qua ne sta scendendo l'aria. Qua Rosso di pomeriggio dai pompieri, sono in barra mobile, li sento tutti abbastanza bene, dai, forse il signore del microfono, ci stavo anche chiacchierando prima, che mi sono affangato, ero più di un'ora bloccato in mezzo al fango. Come in mezzo al fango? Cioè, cosa è successo? Perché? Facciamo consegne di bombole, era una campagna, sono andato a girare in mezzo al prato e ci ha affondato il furgone dentro. Ne sono uscito adesso praticamente e ho altre 20.000 consegne da fare alla cassa, broia, cazzo. Capo, però moderazione sempre a parlare, che ci sono anche bambini all'ascolto e signore. Mi spiace, bisogna stare attenti, quando sono pozzani non sai mai che cosa c'è nascosto sotto. Da poco è capitato anche a me, ho percorso una strada vicino a Mores, sembra asfaltata con un pozzanghero, un viottoletto, però asfaltato, e c'era una buca, minimo sarà stata 20 cm profonda. Meno male stava andando piano, sennò ci avrei lasciato l'avantreno. E così, bisogna stare attenti, poi col fango, se si impatta le ruote, già esci domani. Va bene, sentiamo Cappuccetto, avanti Cappuccetto, bello su. Break. Registrato il break. Allora vediamo un attimino, ho rimesso l'MC60, dai. Adesso però qui ho visto c'è un tatto sotto quel Super Sideri, che forse proprio non chiedo. Adesso prima di tutto vediamo se così va bene questa modulazione, se è la mia, quella solita anche qua. Sì, questa è la tua perfetta. Solita modulazione, appunto. Solita tua, questa va bene, l'altra non mi piace Fabri, è proprio scarsa, molto scarsa, brutta, riprendi. Sì, riprendo io, un attimo il break, ascolta, ma sotto c'ha questa cosa che c'è scritto, cosa voleva dire? Che c'è scritto Relay ed Electronic. Qua io ce l'ho uguale praticamente, io muovo quello e mi chiude e non mi fa uscire in trasmissione, prova ce lo fa anche a te, non ho capito a cosa serva. Poi me lo dice, magari Marco se lo ricorda, avanti il break. Avanti il break? Niente, era di fretta. Vediamo Cappuccetto che non è senza colore. Cappuccè, di bella? Ho sentito odore di doppio malto, tipo superalcolico, roba del genere, roba pesante, occhio, roba pesante sta arrivando. Vediamo un po'. Avanti questo break, così un po' di prepotenza. Buonasera a tutti, Gianni W1. Ciao Marco, ciao Claudio, Fabrizio, non so se se ci sia qualcun altro, perché ho acceso adesso, dai. Buonasera a tutti. Ciao Gianni, buonasera. Prova Fabri, perché io l'ho provato anche adesso, non mi fa uscire a me. Praticamente se lo inserisco non mi fa uscire, capito? Quindi non so a cosa serve, io ho un sacco di tempo a sto microfono, non so a cosa serve. Ciao Gianni, buonasera. Riprendi Fabrizio. In azione c'è Rosso che è in tour, è uscito adesso da un problema col mezzo, abbiamo Occhi di Gatto che sta parando un microfono e poi abbiamo Toro di Controllo. Vai Torre! Forse abbiamo parlato assieme un attimo, no, diceva Fabrizio di provare quel tazzino, perché l'ho provato adesso e praticamente non mi fa uscire. Mi blocca il PTT, diciamo, una cosa del genere, boh, non so a cosa serve quel tazzino che c'è sotto. Sì, anche a me, uguale identico, boh, non lo so. Ascolta, vediamo di regolare il microfono di questa radio. Vai, così va bene, così è fortissimo, va bene. Quindi lo lascio così, non lo abbasso e non lo alzo? No, per me va bene così, ti aspetta. 5 perfetta, siamo vicini noi. Vedo un po' con Gianni, avanti. Ehi, a prova. Gianni, ti piace o lo vuoi sentire più croccante? A me va bene, per me va benissimo. È una radio soft, bella, forte e chiara, dai, presente. E se sollevo leggermente... Così ho sollevato leggermente, cosa è successo? Che vai quasi a strappare, era meglio prima. Allora, guarda adesso, sto andando a strappare o va bene, ma abbasso un po'. No, lascia così Fabri, te l'ho detto, io sono col Galaxy e ti sto ricevendo magnificamente bene. Bella forte, la radio 5 perfetta. Allora la lascio così, dai. Vabbè dai, continua a cablare, no, devo cablare il microfono per un'altra radio, questo non va bene, il cupo, me l'hanno detto anche su una radio, un'altra radio, non lo so perché, non lo so, vabbè, va bene, lo vedremo, non può essere il microfono, che ne so, non si sa, funziona, può essere la capsula, non lo so, adesso ci faccio un'altra cosa su un altro microfono, dai, ci sentiamo fra un po'. Ehi, però ci puoi dire la capsula o come la fermo, capito? O come la fermo, dai, va bene, siamo qua Fabrizio, ti servono controlli, anch'io sto Gianni, sto dando alimentazione alla radio quella militare, e così la provo stasera perché devo fare delle prove con Gianfranco, mi devi spiegare alcuni movimenti perché è abbastanza complicato. Dammi il tempo, lo devo collegare, poi vediamo un po' che... Marco, Scorpion, Timur, Fabrizio, ci sei? Sì, sto cablando, aspetta. Fai, sento la musica sotto il fono. Allora, se Marco Scorpion l'ascolto, devo chiedere una cosa. Sto rilanciato, ma tu non riprendi, c'è sempre con questo cacchio di telefono in mano. Non l'ho ripreso io, sto parlando. Ecco, quando ho chiamato io, no, però ti ho detto, aspetta un attimo, che sto passando i fili alla radio militare, che devo accendere, devo provarla, se no non ci capisco un cacchio. Poi vediamo come va, dai. Ma la cornetta c'ha, Claudio, la cornetta militare? Ah beh certo, c'è una radio militare, c'è la micro cornetta, praticamente parli però, non so se parla ascolta, se c'è qualche colonnina, non l'ho ancora provata. Ma non pensare che sia una modulazione come questa, è una modulazione sicuramente citofonica, una modulazione militare, una modulazione, ma a me interessa che funzioni, che sia perfettamente funzionante in tutte le sue cose, capito? Quello è importante, poi come esce, è chiaro che esce come una radio, come una micro cornetta. Non se ne può metterne più tre lì, no? Vabbè, adesso lo proviamo, vediamo com'è la ricezione e tutto. Ma stavo aspettando Gianfranco per darmi delle dritte perché non mi ricordo dove aveva attaccato il BNC dell'antenna. Ma c'è l'attacco! Ma è attacco militare, è un attacco BNC, non è attacco PL, io ce li ho, c'ho tutti gli attacchi. L'ho già collegato il BNC, però l'antenna non l'ho ancora collegata perché non so se è esatto il punto, sono due attacchi uguali, non so se è esatto quello, uno c'è scritto int tuner e l'altro relay, non so cosa, capito? Quindi devo aspettare che sia Gianfranco per farmi capire dove mi devo collegare l'antenna. Ah ecco, ci va l'attacco BNC PL, così faccio capito. Sarà come quella dell'aereo quando parlano sull'aereo. uscita in sicurezza. Infatti secondo me lo faccio, faccio l'attenti, capito? Vi mettete tutti sugli attenti, facciamo presentarmi. Già fatto fare la vernice, la ritiro lunedì. La ritiro lunedì perché domani è chiuso, la vernice militare, verde militare, me la consegno lunedì così Roberto poi me la rinfresca, c'ha dei grafi, delle cose, appunto, però è nuova, nuova. L'ho dovuta smontare dallo zainetto perché era attaccata allo zaino portaspalle con l'antenna esterna, capito, un barrasone, ci stava in questa stanza, l'ho tutta smontato. L'ho già portato su tutta quella ferraglia, mi sono tenuto solo la radio giù, capito? E quindi come l'appoggiavano, facevano un po' graffiata, ma questo a noi che si può smontare, bisogna verniciarla così montata. Da 4.000 viti c'è, come fai a smontarla? Ah, così montata, la ultima bella, ma già la isola, non è che la isola nei punti strategici, la isola. Come ha punti strategici, non c'è solo il frontalino, Gianni, non è una radio come questa, no? C'è il militare, non è un antepigiante, è ferro pieno, capito? Quindi devo isolare il frontalino con la carta e il nastro, no? La parte, poi il resto sia sotto che sopra ci può verniciare, così la pendere è una passata lì, e la spruzzi tutta, capito? Perché tutta verde militare, anche le viti, tutto. Anche la cornetta, tutta verde militare, bellissima, molto bella, dal vivo è molto bella, dalla foto, ma la voglio vedere accesa per velo smittere, come si illumina, come è, come funziona, capito? C'ho questa cosa di vederla così. Era la foto che mi hanno dato, non è che si vedeva bene, era un po' buia, non riuscivo a capire se era la parte di dietro o la parte di davanti, no? Non si capiva bene, dai. E poi forse era una radio particolare, diversa dalle altre, non lo so. Ehi, aspetta, acceso la luce, te la faccio bene, la foto te la rimando, aspetta. Ti mando il davanti, capito? È quello il problema, mandartela davanti. Guarda che te la sto mandando. Hai capito già? Sì, sì, sì, sì, ho capito, stanno per... Vabbè, se si vede qualche filo sopra così è tutto volante e poi già stiamo bene. Guarda quanto è bella, è favolosa, non bella, ma è molto molto bella. Io ne avevo un'altra così, poi l'avevo data. Adesso sì che si vede, cazzo qua. Prima non si vedeva nulla, adesso già si vede. Infatti l'ho appoggiata sopra il faccio. È bella, molto bella. Vabbè, qualcosa della microcornetta, ma comunque va girato dall'altra parte, adesso l'ho messo così perché sto facendo le prove, invece l'attacco dietro il piede. Ti piace? Lo vedi lo smitter a sinistra, rotondo, piccolino? Cosa? Lo smitter lo vedi piccolino a sinistra? Lo smitter piccolino lo vedi a sinistra? Quello è commutato dei canali, quello centrale, poi certo le frequenze, le bande. Lo vedi a sinistra, lo smitter piccolino? Adesso vediamo se ci illumina. Ehi, ehi. Peccato. Non si illumina lo smitter, si accende la microcornetta, riceve tutto dalla microcornetta. Ma stiamo durando con questo? No, non ho attaccato l'antenna, ho paura perché non so il cavo, però riceve dalla microcornetta, sente il QRM. Peccato che non si illumina lo smitterino, quello lì, capito? Beh, apervi l'attacco l'antenna, vediamo. Ho fatto una bella trasmissione. Quindi adesso è accesa, Claudio. Ehi. Prova, se non devi fare niente, no. Prova a attaccare l'antenna. Aspetta, ma non so se in questo canale. Vabbè, glielo metti, cosa c'è la frequenza? No, che decametrico. La frequency c'ha. Cazzo già, una radio 1960, Emmy, decametrico. Lo so se vuol dire decametrico. Ma ci dici lì? Già, lascia perdere, te lo spiego un altro momento. Già, non ci capisco un cacchio. Già va, però in CW doppio le bande, non so come siano, come si cambiano. Devo aspettare Gianfranco. Cos'è? È difficile, no? Non è facile, no? È una radio militare, americana. Decametrico, sai cosa vuol dire? Non ne ha di frequenzimetro, decametrico. Capito? C'hai gli sbalzi, no? Ad esempio questa fa... Allora, mi devo allontanare che questa è la fine della stanza, questa fa 14, allora comunque l'hai vista nella foto, va bene? Stavo parlando al telefono, dimmi. Ho detto l'hai vista nella foto, ne hai mai visto di questo tipo di radio così? Mi pare da Walter una volta ho visto quel tipo di radio in terra, ce l'aveva militare, però non mi ricordo se era così grande, non lo ricordo bene. C'aveva questa radio militare bella. Questo è grande quanto il Galaxy, non è che sia un po' più bassa, poi fatta diversamente, colore verde militare. Segnale, perché c'è quello smitterino che ho visto che era oltre la metà come segnale, però non so dove arrivi, che banda è, che frequenza è, soprattutto la banda è la banda è banda è il selettore del frequentimetro del range qua è a sembra sotto i 7000 7000.7, non so, vabbè. Poi lo vediamo, non è importante, l'importante è che accende, che funzioni, che si sente, vabbè. Tutto nella microcornetta, non so se si può mettere qualche altoparlante esterno, se no la microcornetta ti fa sordo, io me la prendo il gioco. Cappa cappa, dai. Ehi, ehi, ehi. Ma Marco sta accanto, no? Non si sente più, deve avere chiuso. Voi non siete attenti, io ho sempre l'orecchio vigile, gli ha squillato il telefono mentre stava parlando, quindi Marco, poi quando sta al telefono che c'è lavoro e parla di lavoro si trattiene, non è che entra così a pettinare le bambole e non risponde al telefono, deve seguire le cose, quindi a casa, perciò sicuramente al telefono già riprende, non ti preoccupare, non se ne va senza salutare. Cosa hai detto? Che ti mando una foto. Vabbè, com'è la situazione? Tutto bene? Tutto bene, tutto bene. Insomma, tutto bene, no, proprio, comunque, vabbè. Ehi, è tutto il dente. No, ma Ivano Mico, tutto bene, ottimamente bene. Tanto se dici che va male, magari crei ansia, meglio dire sempre tutto bene. Vabbè, che c'è tutto il fattore di Marina. E quanti anni aveva? Tanta ghimba. Ma quello che era malato? Non era malato, un arso cardiaco. E cazzo così? Minchia. Purtroppo sì, molti bianche. Ma è negativo al Covid, il problema di Covid, niente, così. 4-4-8, 4-12. Ah, quante morti ci sono così, Covid e ne da Covid, purtroppo sì. Perché chi è morto? Il fratello della mia compagna. Accidenti, mi spiace, condogliamo. Grazie, poveraccio, basta carizzare. E poi era un abbastanza alto, massiccio, sta avvicinando. Ma come mai in poco tempo? Allora, praticamente aveva un problema al naso, cioè il naso un po' deviato, no? Respirava male, doveva essere operato, stavo aspettando e poi non so se dipende da quello, comunque non stava respirando bene. E magari c'aveva il Covid e non sapeva, ma fatevi controllare anche voi, cavolo, perché accidenti, ma sta morendo un sacco di gente, sembra così, ma questa malattia sotto sotto, questo virus è terribile. Lo so. Non guarda le facce a nessuno, né ricchi né poveri. Guarda, una settimana fa Luca è morto anche mio cognato, è andato a mia nipote a portare il telefonino perché gli ha telefonato, ha detto guarda che c'è il telefono che non mi funziona, ha detto papà te lo porto io, ne ho uno di riserva. Sono andati col marito, hanno bussato e sentivo la televisione accesa e non rispondeva, alla fine ha aperto con le chiavi, l'ha trovato seduto nella sedia, l'ha avuto al televisore secco. Non ho parole. Questa vita è così strana, infatti bisogna godersela finché uno può, perché non rimandare a domani quello che puoi fare oggi. Adesso chiamo a Sierson e mi ordino un po' di radio. Marco, purtroppo è così. Adesso facciamo a stare di cuna, Gianni, no, giusto per questo dottore, o questo era un meccanico dentista, si era un po' robustello come persona, tipo Claudia, forse poco di più, che sicuramente Claudio l'ha conosciuto, vabbè. diciamo che allora sempre questo me l'ha raccontato il figlio e poi qualche amico anche, aveva sempre questi dolori strani. Infatti dicevo, ma vai a farti controllare, vai a farti controllare questi dolori al petto. E poi niente, l'ha trovato il figlio morto, mi sa, in bagno. Si è accasciato la sera, ed è morto di infarto. Quando di più robusta lo zucca, più o meno con la pezza di forse lui poco di più, ma siamo lì, dai, per farti capire, come Gianni no, Gianni è alto, è grosso, quella di Bussudipo, quanto è, comunque era abbastanza tozzo, ecco là. No, ma sei stato chiaro, occhio per cioccata. Bubu, io mi sto toccando, ma meno male non ha citato neanche a me. No, aspetta Marco, lui si lamentava di questi dolori, tu cosa fai? Ti lamenti dei dolori e non vai all'ospedale? Se stai male, eccetera, vai all'ospedale assolutamente, perché... Con questa situazione strana meglio farsi evitare tutto. Ma volevo dire, ma lo conosce qualcuno? Conosceva a Paolo quello che si occupava di calcio, che è morto un paio di giorni fa? Io l'ho sentito, sì. Ma lui in che cosa è morto? Poi cosa l'ha infatto? Paolo Tasso. Bravo, Paolo Tasso, è andato in pensione da poco, ci conosciamo la vita da ragazzi, mi ha coetaneo, e forse me un paio d'anni più grande, perché io sono un po' più grande di Claudio, ma siamo lì. Tu lo conoscevi qua? No, ne ho sentito parlare molto, ma non lo conoscevo. Io un po' un anno di differenza c'era, tu sei 59 e 60. No, di vista, magari se mi mandate qualche foto, non lo so, può darci pure, ma così ne ho sentito parlare di questo allenatore, di questo appunto, ma no, non lo conosco. Marco, noi siamo degli ali di ferro. Cavolo, Bubu, e il ferro bisogna stare attenti perché il ferro si ossida, meglio in acciaio, inox, asi, ma non asi, non asino, ragazzi è così, perciò niente, bisogna, se uno sta male bisogna che si rimuova subito in ospedale, perché in questi tempi non c'era scherzare, e poi però vedi, capitano anche le cose, che non c'ha nulla, si siede in poltrona, guarda la televisione, pum, uno scioppone, ma è la vita che stiamo vivendo, sempre stressati, pieni di paranoie, di problemi su tutto. Prima che se avevi una mela, mezzo litro d'acqua andava bene, o se avevi quello che avevi andava bene, adesso invece è tutto stress, è tutto, corri, qualsiasi cosa, corri, moduli, schede, questo, e vai alle porte, file, vai qua, fila, ci sono fila per tutto, fila, l'unica porta dove non c'è fila è in banca, perché oramai di là non mi uso più in giro, bobo. Ma ho criticato, è andato in QRT o è salito sul tetto? No, sto guardando il microfono per le 910. Quando siamo in giro di allarme? Ho visto, cosa c'era? Un mese fa proprio da Roberto, perché anche Roberto si occupa di calcio, da rotondo lì, da quadrato. No, ho capito qua, perché ha ripreso Fabrizio, che stava dicendo che stava riparando il microfono, ma hai capito allora di chi stiamo parlando? Mi ha mandato la foto Luca, certo di vista lo conoscevo, l'ho anche salutato, buongiorno, buonasera, anzi buongiorno perché era di mattina, l'ho visto da Roberto lì in officina. Sì, sulla poca insieme ci siamo trovati, ma avevamo anche, ci vediamo sempre perché io vado lì da Sinestempo e lui è con la moglie, molto spesso va lì a prendere il caffè e perciò è capitato tante volte di incontrarci, ma sempre, poi siamo amici di infanzia. Perciò lo stress, lo fine di vita, ti porta l'esasperazione, ti porta tutti questi infarti, perché avvengono, per quello, pensieri di tutto, bollette da pagare di tutto, non pagate niente, non pagate nulla. Se della radio non lo pago questa. Fabrizio, io al 910H gli avevo messo l'MB più 5, era una canonata, se ce l'hai uno. Comunque Marco, sono tutta una cosa, tutto l'insieme delle cose, è un casino. Ma. Poi sono molto lo stress, cosa vuoi ti dico? Proprio vero, oggi ci sei, domani non si sa. E come hai detto tu prima, bisogna godersela la vita, finché puoi. E allora, ma è soprattutto comunque sono questi ultimi 10 anni, cioè vabbè, io lavoro 40 anni, ho fatto 40 anni l'anno scorso di lavoro, in questi ultimi 10 anni, e cioè sono peggiorate da paura, perché sono tutti stressati, a tutti i livelli, a tutti i livelli, e allora tutti vivono stressati, stiamo vivendo stressati con questo ritmo pazzesco, poi ritmo di cosa? Pieni di seccature, di date, di scadenze, di impegni, di maledizione, è chiaro che l'organismo ne risente, perché nell'entroterra campano 100 anni, oltre 100 anni, nei paesi freddi, in tutti questi paesi, perché sono posti dove non ci sono i telefoni, non c'è lo stress, non ci sono gli impegni di questo e di quell'altro, non devi correre per comprarti la macchina nuova, non devi pagare il meccanico, non devi fare questo, non devi fare l'altro, ecco. Tutte queste cose ti portano a un tenore di vita dove sei sempre in corsa, sempre stressato, ansia, e poi ecco, pum, lo scioppone, mamma mia, vado, dai, l'antenna a doppio runs per far girare. Sì, poi inconsciamente anche questo problema del coronavirus, noi lo viviamo inconsciamente, magari non ci accorgiamo, però inconsciamente lo viviamo questo problema qua, capito? E anche quello ti stressa, c'è poco da fare. Io a volte non avevo mai conosciuto una notte in bianco, adesso sono un po' di notti che mi giro, mi rigiro, mi sento un'ansia, non lo so, e non ho problemi grossi, dai, no? Però non lo so, sento quest'ansia strana che non mi fa dormire tranquillo, ecco. Marco, c'è solo 40 anni di contributi, c'è un anno più grande di me. Cioè praticamente è iniziato da ragazzino, però non mi rassicurato allora. Secondo te, io ho fatto più di 40 anni di lavoro, perché ho iniziato come ho terminato gli studi, ho fatto il militare, che contano comunque un anno e mezzo di marca, eccetera, e poi ho sempre lavorato in negozio. Già la prima lavoravo in negozio quando, perché la sera, babbo, dopo che finito di fare i compiti, bisognava andare a caricare, a scaricare, a fare consegne. Ma allora mica si usava fare, cioè avevamo fatto l'impresa familiare, eccetera, perché c'erano queste formule, ma vale come tutto, ma non vale come contributi, capito? Perciò anni buttati, perché non per assurdo uno che era dipendente, un ragazzo che lavorava come lavoravo io da figlio del titolare non ho maturato contributi, lui ha maturato i contributi. Sono quelle cose dove se ci pensi dici ma com'è possibile che organizzino questi scienziati che abbiamo nei vari governi, nelle varie formule, sono queste cose così, e poi ti trovi che quegli anni ti servono e non ce li hai. Infatti ti conosco da tanto, ti ho conosciuto lavorare da sempre, perciò come mai c'è questa opzione, no? Io ho fatto quota 41 3 anni fa, 57 anni. Tanto stai sempre a bisticciare, ma basta mandarci tutti a quel paese e se la prendono in come te possa ma. E niente, mi dopo devo scendere giù a Fertilia, mi arriva qualche chilometro, non a Giugana lì, però dovrà fare compagnia a Marina. Sempre continuo a lavorare, ma devo dire che con un pochino più di calma. Devo dire che ormai, tra virgolette, sono anziano nel lavoro e posso un pochino organizzarmelo senza, sempre stressante, perché comunque non è che sia, ma diciamo che ho molto più tempo rispetto agli anni passati, perché le cose adesso vanno in un altro modo, però comunque è così, bisogna godersi. E il problema è che molto spesso uno deve per forza è costretto a correre a fare, perché ci sono gli impegni e devi portare avanti. Ah, beh, così è. Comunque sentiamo se Fabrizio ha fatto questo cambiamento di microfono, o altrimenti poi ma Rosso, che c'è ancora in giro, sta lavorando, ha ripreso oppure li avete rilanciato? Vediamo un po' se riprende Rosso, e altrimenti poi sentiamo se Fabrizio ha fatto queste saldature su quest'altro microfono. Rosso non c'è. Fabri, e tu come sei messo col microfono? Lo sto ricaricando, ma è dall'interno, quindi sto mettendo un altro microfono, ma non qua, qua lascio questo. Ho capito. E magari può essere solo la capsula, che sia andata, perché c'è da dire che questi microfoni hanno 50 anni, cioè ragazzi, 50 anni una capsula prende, può aver preso umidità, ha gli anni, invecchiata, magari basta solamente sostituire quella, perché il circuito, se funziona, faccio fatica a pensare che possa essere responsabile di questa modulazione così gracchiante, ma la capsula invece è più facile. C'è anche di quelle capsule ceramiche, anche di quelle piccoline, mi fa bene, fa una prova magari, togli, risalda quella là e prova una di quelle piccole ceramiche. Ma poi vediamo, non me ne frega niente, adesso voglio mettere in marcia l'altra radio, ci sentiamo fra un po'. Ah, bene, procedi, dai. Va bene. Ma con questa sto uscendo bene oppure devo passare a revisione? Gianfranco deve essere sotto copertura in qualche Mission Impossible, sicuramente si farà sentire più tardi, se no sarebbe già entrato. No, stiamo arrivando benissimo, Marco. Radio 5 è perfetta, la grande, no, non c'è problema, ottimamente. Te la posso mandare questa radio che ho preso? Mandala fotografia. Marco 30 anni fa circa mi ha venduto la sala, lui non se lo ricorda, ma io sì, perché ero sposino, siamo andati a comprare i mobili dal padre, e la cosa, la sala l'avevo presa nera, poi mia moglie non l'aveva più voluta sapere perché c'è che attirava troppo la polvere e me l'aveva fatta cambiare, però l'ho presa lì da loro. Addirittura, raga, ce l'hai ancora? No, non ce l'ho più perché l'ho venduta a Portobello. Quando ho cambiato la sala, mi sono preso la sala da San Arrivi e praticamente l'ho venduta a Portobello, quella lì. Portobello ormai è diventato un centro smistamento di tutto, allucinante. Si trova, anche da poco che sono passato così con un amico che voleva vedere delle cose, ho trovato dei reperti archeologici, mi sono ricordato, perché era così via la mobile che vendeva nonno, non babbo, nonno che vendeva. Bellissimo che. Buona mi sa di mondetta, di sporcizia, ho visto nei turbini di Porto Torres quello che trovano nel coso, nella discarica, se la prendono la roba e se la vengono lì. C'è molta mondetta anche. Diciamo che io più che altro ho venduto che comprato. Ho venduto un po' di roba che non mi serviva per buttarla. Guarda che c'avevo una bella cristalliera, con la cristalliera che avevo preso si illuminava tutto, illuminava i bicchieri, faceva un bel effetto. Eh sì, mi ricordo, allora si usavano queste cose scenografiche. Vabbè. Bene, bene. Ti volevo dire, ma poi l'antenna l'avevi riparata già? Sì, l'ho riparata insieme a Luca, siamo saliti, l'abbiamo scesa giù. Ma non era niente di cosa, cioè aveva due filature nemmeno molto lunghe, ho rientrato un po' di più l'elemento che probabilmente piazzandola l'abbiamo lasciato troppo fuori e non ce l'ha fatta resistere il vento. Quindi l'abbiamo rientrata dentro, ho messo tre fascette in acciaio e adesso grazie a Dio con questo vento tutto quanto è andata bene. Va benissimo, avevo messo tre fascette in acciaio, poi vulcanizzata, ho messo il nastro sopra vulcanizzante ed è addio adesso. Claudio, ci sei? Sì. Claudio. Sì, Lu, sono qua, scusate, sono un po' distratto, dimmi. Hai visto WhatsApp? Sì, sì, stavo guardando proprio quello. Ci picchia, mi dispiace. Capisci? Ho già visto. Vabbè. Te l'ho mandata, Marco. Bellina. Ha una figura anche molto... molto bella, perché se no c'è tutto da fare. Adesso ho fatto fare il colore, il verde militare, faccio una rinfrescatina. Ogni volta fa così quando si accende. Adesso lo guardo. Con questa ho cambiato radio, questa modulazione com'è? Buona, buona. Ho cambiato radio e cambiato microfono. Vediamo un po'. Funzionare con sempre zero, sembra che stia andando bene. È meglio o peggio dell'SBE questa? Lo sento un pochino leggermente compresso, ma abbastanza comprensibile. Il segnale è molto più alto. Questo è un ICOM, è il 725. Ancora esiste il 725. Il 725 non è quello che c'ha quello sportellino con gli slider? No, quello lì è il 7, quello è il 735. Il 725 è quello che praticamente ha un po' tipo la forma del 275H e 475H, però è di diverso colore. Sul verdolino rimane, no? E c'è quella specie di grigio verde strano, il frontale è grigio scuro, però grigio scuro metallizzato. Le manopole sono leggermente diverse. La parte esterna, quella dorata, sembra tipo quella dei Kenwood, dei 440, di quella serie lì come aspetto esterno. È una radio che ho da tanto tempo, ma bella, funziona molto bene. Va bene. Ottimo, va bene, alla grande. No, io sul 910H, che non ho più, avevo messo, inizialmente avevo il cavetto, ma l'ha fatto Andrea, da Kenwood da ICOM, e quindi usavo il 60. Poi il 60 mi serviva, ho rimesso il cavetto su originale dell'MC60, e lì mi avevo messo il connettore sempre 8, e avevo messo un MB+5, andava benissimo, poi vabbè, per me, microfoni. Vanno bene tutti, non c'è problema. Avanti Gianni, complimenti, un'altra covata ti hanno fatto. Stamattina sono nati ed è fuori stagione, loro dovrebbero farle in primavera, poi tutta l'estate sino ad arrivare settembre-ottobre, ma adesso è fuori stagione, infatti li ho messi dentro casa, lasciati pigliare in breve i gripa. Ehi, riprendi Marco. Ehi. Va bene, questo c'è qualche volta in più ovviamente rispetto all'altro, adesso ho guardato quanti watt dà, ma mi pare che sono sotto i 4 watt il console, e qua il microfono è una di quella serie tipo Adonis con gli up and down, quello con la programmazione dei pulsanti, il nero diciamo, il DM5000. Ma di quella ferraglia nulla stai prendendo, ma... No, già, me li tengo, cioè non ne compro altri perché non ne faccio nulla perché poi c'erano già stati, devo assolutamente farmi revisionare qualcuno che da tempo che non collego e che non uso, ma non ne compro altri, te li tengo tutto, ne ho un bel po', basta qua, su questo lato della contrapposta delle apparecchiature radio, magari quando passerà il Covid che si potrà, che sarà un po' le cose più tranquille, magari un giorno vieni qua a casa e vedi come sono organizzato, ma per qui una parte contrapposta a quella delle apparecchiature radioamatoriali, devo realizzare una situazione identica, con le stesse finiture, lo stesso materiale, solo che adesso non fa né andare né fare né venire né portare gente, perché non è assolutamente il caso. E li sistemo tutti bene con i commutatori in maniera tale che puoi accendere qualsiasi radio, puoi accendere la 1, la 2, la 3, la 20, la 30, e collegare i microfoni, puoi metterci qualche amplificatore e poi andare in antenna, capito? Una cosa carina, tipo mi pare che avevo mandato una fotografia dall'altra parte del contrapposto a quello dove c'ho le radio della banda cittadina. Mi sa di sì, un tempo fa. E vabbè, comunque se ce li hai le radio ti soddisfano quelle che hai, già va bene così. È interessante che siano funzionanti, poi io ogni tanto mi attacco una, ma il gara si fa me il gara, si vede poco di queste radio qua vintage, il gara si è il numero uno. Ma perché è vintage il gara? Beh, non è vintage, mica di adesso. No, beh, rispetto a quello che io noto più giovane. Ce ne sono poche belle come il gas, però io ho visto il tra che mi piace, che c'è Marco, e poi quell'altro di ex che ti avevo detto, come si chiama, che c'aveva anche Mario Mans. Non me lo ricordo già, te l'ho detto in questo periodo, c'ho la testa un po' da altre parti. Non me lo ricordo. Vabbè, ricordati che la numero uno c'è per l'altro. Vicino per non prendere freddo, Dacche col Galaxy, gli altri sono tutti a correre. E già come ho fatto io, se uno deve avere due postazioni deve fare come ho fatto io, come ci ha amato. Vabbè, io a Kef non c'ho più niente.